Ciao a tutti e bentrovati con la seconda puntata di Radiobook, il programma del blog Gli scrittori della Porta Accanto in collaborazione con Radio Big Word. Io sono Giulia Mastrantoni e sono felicissima di avervi di nuovo qui. Oggi, seguendo la scia della prima puntata, in cui vi parlavo del mare e della velista più giovane al mondo, vi racconterò che cosa ne pensa la nostra Stefania Bergo, autrice e blogger, del film di animazione Disney Oceania, un tripudio di blu e di onde. Si tratta del 56esimo capolavoro di animazione della Disney ed è diretto da Ron Clements e John Musker. Sono già i creatori di La Sirenetta e di Aladdin. Non a caso ritroveremo molte similitudini con La Sirenetta. I due artisti, fino alla Principessa e il Ranocchio di qualche anno fa, hanno cercato di salvare l'animazione a mano libera, ma adesso, con Oceania, hanno optato per la computer grafica. In Italia la protagonista è stata ribattezzata Vaiana, mentre nella versione originale il titolo coincide con il nome della ragazza, Moana. Il cambio di nome è dovuto al personaggio di Moana Pozzi, che qualcuno di voi conoscerà. È un'attrice pornografica di nascita genovese, deceduta nel 1994 in circostanze quantomeno poco chiare in Francia. L'associazione di idee, come si può facilmente immaginare, non sarebbe risultata troppo vincente, trattandosi di un film per bambini. La trama è semplice e lineare, è quasi prevedibile in effetti. Vaiana è la figlia di Tui, il capo di una comunità che vive su una rigogliosa isola dell'Oceania di 2000 anni fa. Lo stesso Tui definisce quel posto un paradiso, e ha ben ragione, e cerca di convincere sua figlia a non desiderare altro, perché tutto quello di cui ha bisogno è lì. Vaiana, però, fin da piccola, avverte il richiamo fortissimo dell'oceano, un po' come Melody della Sirenetta 2. L'oceano gioca con la bimba e le dona il cuore della dea della natura, Tefiti. Il cuore è stato sottratto alla stessa divinità anni addietro dal semidio Maui. Maui, dopo aver rubato quel ciottolo così potente, è stato sconfitto da Tekka, un dio malvagio che bramava il cuore per sé. Da allora il sassolino è andato perso nei flutti dell'oceano. Vaiana è troppo piccola per conoscere questa storia, ma la nonna decide di raccontargliela. Anche perché rubando il cuore, Maui ha condannato l'isola a morire lentamente. Gli alberi si stanno seccando, i pesci hanno deciso di abbandonare le acque. Il paradiso è in procinto di diventare più un purgatorio. Forse è proprio questo il senso, il significato profondo del lungometraggio della Disney. L'istinto primordiale a seguire la propria natura e la voglia di difendere un pianeta che è bellissimo. Il messaggio femminista è molto forte. Infatti non esiste nessun principe e non esiste neppure una principessa. Vaiana infatti è la figlia del capo, lo dichiara lei stessa e ne è molto orgogliosa e vuole solo seguire la sua natura. La grafica dei personaggi è meravigliosa. I tratti somatici polinesiani sono perfetti e la carta vincente del lungometraggio è questa, una grafica straordinaria. Fin da subito la natura è meravigliosa. I colori dei fiori, il verde, la trasparenza dell'acqua, la sabbia, sono scene spettacolari e molto realistiche. È un film che, visto in pieno inverno, fa venire voglia di fare un tuffo nell'oceano. Le musiche sono altrettanto belle. Infatti la colonna sonora è caratterizzata da ritmi polinesiani. Però ci sono molti, forse troppi, tratti in comune con altri capolavori Disney del passato. Si parte dai tatuaggi animati sul petto di Maui, che ricordano quelli di Hercules. Si passa poi per l'ironia del semidio, che ci ricorda parecchio il genio di Aladdin. E poi si arriva alla nonna, che tutto sa e tutto capisce, un po' come la nonna di Pocahontas oppure la nonna di Mulan. I due animaletti buffi che accompagnano Vaiana sono un po' un cliché della Disney, perché ogni principessa ha sempre il suo animaletto. Questa è una cosa che Maui fa notare a Vaiana e le dice che ha un abito da principessa, ha due animaletti come una principessa, è una principessa. Vaiana ribatte e si fa rispettare, che è qualcosa di completamente nuovo. Bisogna però anche dire che l'ambientazione è molto simile a quella di Pirati dei Caraibi, specialmente per quanto riguarda il salvataggio di Jack Sparrow dallo scrigno, con tanto di rovesciamento della barca ed isola deserta. Le critiche non finiscono qui. Infatti, in un articolo su Wired, la mancanza dell'elemento dolore nel lungometraggio, che si dice necessario per la crescita dei personaggi, è stata notata. Non sempre, però, bisogna dirlo, la maturazione avviene sperimentando il dolore. A volte si tratta più di empatia o di confronto con altre persone. Questo ci porta alla consapevolezza, che può essere sufficiente per cambiare il corso della propria esistenza. Un dettaglio importante è che la componente dolorosa è presente alla base dei comportamenti di alcuni dei personaggi, anche molto importanti, come Maui. Detto questo, però, molti sono gli elementi che richiamano i cliché. Passando all'aspetto femminista del lungometraggio, possiamo parlare di Maui, un semidio senza più nessun tipo di forza, di aspirazione, neppure di seguito, perché in effetti non ha più follower, come li chiameremo oggi. Si tratta di un Prometeo spaccone che ha rubato la scintilla agli dèi, ma che oggi incarna la crisi esistenziale contemporanea della virilità. Vaiana è determinata, naviga a vista, affronta la vastità dell'oceano da sola, non ha amori da rimpiangere né da inseguire. Impara solo a fare ciò che il suo cuore le dice di fare. Forse anche grazie alla convivenza forzata con Maui su una zattera che va alla deriva. La zattera potrebbe essere un paragone della società. Ognuno ha questa nuova linfa dal contatto con l'altro, anche in circostanze pessime. Si tratta poi di un gioco che si sviluppa sull'empatia, che caccia tutto ciò che è pregiudizio, intenzione iniziale, diffidenza. L'emancipazione femminile in effetti c'è già dall'inizio. Infatti Vaiana è un capo per nascita, non deve dimostrare nulla a nessuno, ma già da quando è piccola cerca di dimostrare qualcosa a se stessa, come pure a suo padre, dicendogli che può spingersi oltre il reef. Il messaggio è questo, forse: imparare a veleggiare da soli, andare oltre, sconfiggere le paure, sconfiggere le tradizioni, sconfiggere tutto ciò che è sbagliato e che non è il nostro io, ma che siamo obbligati a fare. Si tratta quindi di seguire se stessi e non le orme di altri. Si tratta di essenza, si tratta di ascolto, si tratta di richiamo, si tratta anche di destino. E magari non è tanto distante da quello che gli altri si aspettavano da noi, ma è comunque il destino che noi abbiamo scelto per noi stessi. E quindi vale molto di più di un percorso predestinato, fatto senza alcun tipo di riflessione. Anche oggi vorrei leggervi un estratto di una delle autrici del nostro blog, che segue la tematica del mare. In modo diametralmente opposto a Oceania, però, la nostra Tamara Marcelli parla di amore. Il romanzo è Il sogno dell'isola. Io e Lawrence ci conosciamo da molti anni. Non ricordo bene neanche com'è iniziata, so solo che è accaduto e basta. Ci siamo conosciuti per lavoro. Delle strane e quantomeno singolari coincidenze ci hanno portato a lavorare insieme per un periodo delle nostre vite. Un gran bel periodo, indimenticabile. Grande affinità, grande stima ed è subito il germe di qualcosa più grande, ma che avrei compreso solo molto tempo dopo. Lawrence era un tipo particolare. La mia prima impressione fu quella di un uomo misterioso e affascinante, quelli da cui paradossalmente sarebbe bene stare alla larga. Molto impegnativo, un uomo di poche parole, ma di sguardi profondi. Una grande forza interiore, due occhi scuri e limpidi, una persona vera, con pregi e debolezze. Di lui ho sempre apprezzato il suo modo di affrontare la vita di petto, e di non perdersi mai d'animo. La sua forza era quella determinatezza che sapeva di roccia di mare, immobile, sicura, anche se sterzata dalle onde in tempesta. C'è sempre una soluzione a tutto, mi ripeteva spesso. E poi quella sua capacità di farmi sentire al centro dell'universo, anche solo con un sorriso, con uno sguardo. Ma come faceva? Non me lo sono mai spiegata. Difficile sopportarmi quando mi ritrovavo catapultata nei miei tunnel di tristezza, come pure quando prendevo troppa quota. Lui sapeva come riportarmi a un apprezzabile e sostenibile equilibrio. Mi ha conquistata con i suoi sguardi, con le serate in spiaggia, con l'ottimo vino rosso nei calici di cristallo, e a parlare, parlare, parlare. Con la sabbia ancora calda tra i piedi, senza malizia. Una notte mi ha guardata correre al buio sul bagnasciuga, sotto una luna stanca, mentre piangevo, nella vana speranza di riuscire a liberarmi dai miei pesantissimi fardelli mentali. Un altro uomo sarebbe scappato, senza pensarci su. Si sarebbe chiesto se fossi evasa da qualche ospedale psichiatrico, ma mi avrebbe sicuramente dato altre chance. Mi sono chiesta spesso perché non trovò una di quelle fantastiche scuse che trovano solitamente gli uomini per mollare le donne? Invece avevo l'impressione che più ero tragicamente e spudoratamente me stessa, più quest'uomo straordinario ed enigmatico dimostrava di volermi stare accanto. Non sapevo se esserne più felice o spaventata. Mi ero domandata tante volte se esistesse al mondo una persona che volesse condividere pienamente la sua esistenza con la mia, soprattutto se potesse esistere un uomo in grado di bilanciare l'altra parte di me, quella più instabile, quella che tenevo gelosamente nascosta. Difficile darsi una risposta. Non c'ero mai riuscita, o meglio, non potevo crederlo possibile. Poi all'improvviso appare lui nella mia vita scombussolata. Per Lorenz fui un fulmine a ciel sereno, una nota diversa e inaspettata su uno spartito ormai noto. Aveva avuto una vita lineare fino ad allora. Una di quelle vite che non hanno sbavature strane, che rimangono rigidamente ancorate a dei prototipi ben consolidati. Innamorato di se stesso, eppure sempre in lotta aperta con la vita, con le occasioni mancate, aveva deciso di trovare il suo equilibrio convincendosi che il meglio lo aveva già avuto. Una vita coerente nella sua singolarità, con qualche deviazione amorosa così, tanto per sentirsi vivo. Il cliché perfetto dell'uomo bastardo. Amava la compagnia, seppure breve e intensa. Amava le donne, quelle belle. Però in cuor suo le odiava tutte. Lorenz era sempre alla ricerca di un'altra sé, di quella parte mancante che gli facesse credere nella vita. Fino ad allora aveva vinto numerose battaglie. Lotte che lo avevano portato a non voler più credere nella semplicità e nella genuinità di una storia d'amore. No, Lorenz non credeva all'amore. Non lo riteneva un sentimento possibile, almeno in questo mondo. Eppure nessuno meglio di lui conosceva l'universo femminile. Era capace di scarnificarti, di alleviare la tua anima, anche solo per pochi secondi. Sapeva dove colpire, se voleva ferirti. E sapeva perfettamente dove mirare se voleva centrare il cuore. Cosa dire? E sapeva pure come dirlo. Non era generoso di complimenti, piuttosto aveva un modo tutto suo per farti capire che apprezzava o, al contrario, non sopportava qualcosa di te. Stargli di fronte non era facile. A volte sembrava che volesse farti vomitare fuori tutte le insicurezze che avevi nascosto. E ci riusciva. Stare di fronte a lui significava essere senza paraventi. Se stavi nascondendo qualcosa, per le ragioni più disparate, lecite o meno, lui sapeva tirartele fuori e ti lasciava così, meravigliata e stizzita. Come faceva quell'uomo a leggere così bene tra le righe? Come poteva essere capace di intuire anche solo da uno sguardo le intenzioni o le paure di chi gli stava davanti? Era davvero un profondo conoscitore dell'animo umano. Dei funzionamenti più contorti della nostra psiche, quelle atte ad assicurarci l'immunità nei confronti di un destino crudele e inconscio. Forse c'era dell'altro, c'era qualcosa che non riuscivo ad afferrare, qualcosa che mi attirava a lui come una calamita. Cominciai a convincermi che c'era dell'altro, che Lorenz non era tutto lì, non era solo quello che mostrava, quella parte di sé era solo un vestito. Un abito bellissimo ma difficile da indossare. Come quelli che usano i frati. Un vestito con una storia, con un significato implicito. Non era un abito alla moda. Non c'era niente di usuale né di banale in lui, proprio niente. Ero confusa. Mi sembrava di avere davanti un bivio, conoscere o non conoscere quest'uomo. Per me cominciò ad equivalere al voler andare oltre l'apparenza, oltre la regolarità della vita quotidiana. Oltre alla banalità di un rapporto d'amore, sentivo che c'era altro in lui, qualcosa che poteva portarmi altrove, in un posto diverso dove potevo essere me stessa. Ero attratta inesorabilmente dal suo mondo interiore, anche se lo sentivo pressato, contratto, pronto ad esplodere. Una sera, così, senza preavviso, sola nella mia stanza d'albergo, cominciai a pensare a lui. Una camera bianca, con delicati mobili color smeraldo, una piccola finestra sulla piscina blu e la profumata macchia mediterranea intorno. Era uno di quei momenti in cui per poter riflettere devi guardarti necessariamente e pericolosamente dentro, e rischi di cadere e di farti male. Il giorno dopo, arrivata con molto anticipo al lavoro, come in preda a una strana adrenalina, mi ritrovai ad annusare la sua camicia, appoggiata all'anta di un armadietto, nel triste e freddo spogliatoio dell'ufficio. Cominciai ad immaginare Lawrence davanti a me, chiudendo gli occhi. Mi ritrovai a sospirare e mi sentii idiota. Una perfetta idiota. Forse anche patetica. Risi guardandomi intorno. Pareti grigie e scrostate, armadietti in legno laccato, due sedie malconce e uno specchio che rimandava una scena surreale. Potevo solo ridere. Così, giorno dopo giorno, camicia dopo camicia, dopo incursioni ricorrenti nei miei sogni a occhi aperti, compresi che Lawrence non sarebbe potuto essere solo un frammento della mia vita, ma qualcosa di fondamentale. Pur conoscendolo da poco tempo, il legame che ci univa sembrava venisse da lontano, da anni luce. Era qualcosa di grande che mi faceva paura e mi stordiva. Non riuscivo a spiegarmi il senso di sicurezza che quell'uomo mi infondeva, anche solo se pronunciava il mio nome. In quel periodo, difficile e decisamente critico per me, non sopportavo alcun contatto fisico, ma nello stesso tempo mi rendevo conto di quanto mi piacessero le sue mani. Una svolta, eppure era difficile da accettare. Io ero una bomba a orologeria, sempre pronta a esplodere, in perenne lotta contro me stessa. E avrei potuto ferire anche lui. Sono pericolosa, lasciami perdere. Glielo ripetevo spesso. E lui mi guardava compiaciuto, silenzioso, come se quella mia affermazione gli confermasse qualcosa che già sapeva, come se gli rendesse il cammino più chiaro. Più io ero confusa, e più lui dipanava le sue incertezze. Una parabola inversamente proporzionale. Per mesi l'ho rifiutato, l'ho respinto. Lascia stare. Tu non dovresti essere qui con me, ma a casa tua. Quante volte glielo avevo ripetuto? Tante, forse troppe. E lui, nel sentire quelle parole, reagiva male. Mi diceva che non potevo capire, non ancora. Ci aveva provato, ma nella sua vita mancava qualcosa di fondamentale, qualcosa che aveva sempre cercato altrove. Lo ritrovai a parlare di amore e di dolcezza. Ricordo che i primi giorni in cui lavoravamo insieme, ore ed ore uno a fianco all'altra, uno nelle mani dell'altra, non facevamo altro che discutere. Cos'è l'amore? Cerca di farmelo capire. Cosa si prova? Io non credo che esista. Questo mi diceva, serio e a tratti desolato. Quale effetto potevano avere nella mia anima parole simili? Io che per amore in un passato non troppo lontano avevo pensato di morire. Mi faceva salire un nervoso dalla punta dei piedi fino ai capelli, un brivido di rabbia che mi percorreva elettricamente tutta la schiena. Se avessi potuto lo avrei preso a schiaffi. Ricordo di averlo insultato una volta. Anzi, gli ho proprio dato dello stronzo e l'ho mandato a quel paese. Al diavolo le formalità e la poca confidenza. Se lo meritava. Come potevo spiegarglielo? Come farglielo capire? Così litigavamo spesso. Ma in tutto quel discutere interminabile notavo un certo appagamento nei suoi occhi. In effetti parlare con lui faceva schiarire anche me e i miei angoli bui. Ma erano comunque scintille quando stavamo vicini. Gli altri colleghi ci guardavano come se fossimo due alieni. E forse lo eravamo. Cominciarono a sospettare, erroneamente, che ci conoscessimo da anni. Ebbi la fortuna di essere assegnata alla sua squadra. Ricordo che quando me lo comunicarono, in quel momento, ancora non lo conoscevo. Ti ho assegnato il migliore che abbiamo. Buon lavoro. Non potrò mai dimenticare quella frase, né chi e come la pronunciò. Fu una delicatezza, un segno del destino, la svolta a un bivio. Un altro si chiamava Andrea e decise lui per me. Segnò la mia vita, ancora una volta. Non potrò mai ringraziarlo abbastanza. Io e Lawrence dovevamo incontrarci. Non c'erano dubbi, le nostre strade erano convergenti e così imparai a conoscerlo e lui a conoscere me. E fu come l'incontro di due perturbazioni atlantiche, due vortici carichi di elettricità. I fulmini e le saette erano il minimo che potesse scaturirne. Pioggia, neve, tempesta, Lorenz era il punto fisso a cui cominciai a guardare con interesse. Professionalmente non potevo che stimarlo. Era un passo avanti a tutti. Era sempre oltre, silenzioso, rapido, efficace. La sua testa non si perdeva in mille giri inutili. Andava dritta al dunque. Sapeva sempre cosa fare e come farlo. Sembrava conoscere a memoria certe dinamiche, certi meccanismi. In alcuni momenti appariva perfino annoiato, come se fosse arrivato all'apice della sua bravura e non riuscisse a trovare quel qualcosa in più da sviluppare. Da imparare. Quello che per me era novità, per lui era routine. Eppure la musicalità dei suoi gesti mi affascinava. Vederlo all'opera era strabiliante. Era così naturale. I suoi ragionamenti erano veloci, scattanti, immediati. Dov'è il profitto? Perché un profitto c'era sempre. La strada insegna, basta ascoltare, osservare, imparare, capire. E lui era un grande osservatore, un osservatore paziente, sempre pronto all'azione. Lorenzo aveva quell'esperienza maturata con anni. Era come un camaleonte che riusciva ad adattarsi a qualsiasi situazione pur di raggiungere il risultato. E lo raggiungeva sempre. Aveva alle spalle centinaia di operazioni di cui andare fiero. E per me ascoltarlo era come stare in un'aula dell'università. Lo avrei ascoltato all'infinito.